Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovati da parte di Antonio Ceccato a questo nuovo appuntamento con Ambiente e Salute, nel quale tratteremo un argomento che naturalmente è di ampio respiro, se vogliamo, l'aria appunto che respiriamo. E per farlo abbiamo con noi il dottor Ennio Nascimbene, al quale chiediamo subito a bruciapelo, che è un medico ospedaliero. Lei esercita la sua professione in ambito ospedaliero, come mai si preoccupa della salute in relazione all'ambiente? Guardi, l'articolo 5 del nostro codice deontologico dice, cita, che il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora come fondamentale determinante della salute dei cittadini. Quindi, in un certo senso, noi medici, anche se lavoriamo in ambito ospedaliero, dobbiamo in qualche maniera preoccuparci dell'ambiente e della salute in relazione ad esso. Se pensiamo che il 90% della salute si gioca al di fuori dell'ambito o dell'ambulatorio dell'ospedale e va a consumare però il 90% delle risorse per la salute, vediamo che un pochino questa sperequazione ci porta ad allocare almeno un po' di attenzione e risorse anche all'ambiente. Poi il 24% delle patologie e il 23% delle morti sono, secondo l'OMS, direttamente attribuibili ai danni alla salute arrecati dall'ambiente. Non una quota marginale, quindi, ma una cosa molto importante. Direi di no. E quale aria respiriamo nella nostra provincia? Noi facciamo naturalmente riferimento, visto che lei lavora all'ospedale di Treviso, a questo, ma che abbia una valenza anche evidentemente per il nostro territorio regionale. Quale aria respiriamo? Guarda, intanto diciamo che tutto sommato possiamo considerare la pianura padana come un unicum, perché è quindi tutta anche la nostra regione. Sappiamo che purtroppo per questioni climatiche è tra le aree più inquinate del pianeta, quindi le considerazioni che possiamo fare per Treviso, per Padova, vale per tutta, ecco, per tutta la regione. Normalmente l'aria è composta del 78% di azoto e 21% di ossigeno, poi c'è e tracce di anidride carbonica ed altro. Ecco, l'aria che respiriamo, diciamo così, si arricchisce di tutte le sostanze derivate dai processi dell'uomo. Però in particolare sono le combustioni che generano quegli elementi che nell'aria possono poi diventare nocivi per la salute. Può essere il traffico veicolare, indubbiamente, ma tutto ciò che brucia, quindi anche tutti i sistemi di riscaldamento dove si bruciano o elementi fossili, carboni derivati dal petrolio, ma anche le biomasse di legno o d'altro. E quindi nell'aria troviamo delle sostanze tipo gli idrocarburi policiclici aromatici e soprattutto magari si conosce un po' di più il benzene. O il benzopirene, certo. I composti organici volatili, che sono delle sostanze che si sciolgono nei grassi e quindi entrano molto in profondità nel nostro organismo, e poi il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto, ma soprattutto le famose polveri sottili, che sono un po' un aggregato di queste sostanze di varie dimensioni che a seconda della dimensione entrano più o meno nel nostro organismo. Più sono sottili e naturalmente più facilmente, certo, penetrano. Più in profondità entrano. E come facciamo a capire se l'aria che respiriamo ci fa bene o ci fa male, al di là naturalmente dell'esperienza quotidiana di ciascuno, evidentemente? Guardi, intanto bisogna monitorare il livello di questi inquinanti. Questo è fondamentale e a questo si occupa l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione dell'Ambiente, che è l'ARPAV. L'ARPAV si avvale di 40 centrali fisse e di una serie di centrali mobile e va a monitorare tutti quegli inquinanti che abbiamo citato prima, e in particolare le polveri sottili, gli ossidi di azoto e anche l'ozono. E per legge la qualità nell'aria viene, diciamo, calcolata in base a questi tre inquinanti e viene considerata più o meno salubre. I dati relativi rilevati poi sono confrontati con dei limiti stabiliti per legge, che è il decreto legislativo 155 del 2010, che proprio definisce i valori limite per tali sostanze, qual è la soglia poi di allarme e la soglia anche per cui si bisogna in qualche maniera intervenire. Però sottolineiamo come i valori ritenuti accettabili dalla legislazione sono ben superiori ai limiti che l'OMS suggerisce come garanzia per la nostra salute. E poi, in realtà, per certe sostanze, mi riferisco al cadmio, all'arsenico, al nickel, che noi troviamo nella nostra aria, non esistono limiti considerati sicuri. Sono dallo IARC considerati cancerogeni di prima classe. In qualsivoglia, diciamo, quantità o percentuale, diciamo, di in qualsivoglia, ecco. E la cosa, il quadro mi pare che sia abbastanza preoccupante. E quali sono appunto i dati sulla qualità della nostra aria, dell'aria che respiriamo nella pianura padana? Allora, guardi, il discorso è indubbiamente complesso, perché poi queste sostanze noi le consideriamo concettualmente, singolarmente, ma in realtà interagiscono una con l'altra e hanno un effetto, noi diciamo, sinergico, cioè ognuno dà il suo contributo nocivo alla nostra salute. La interrompo un attimo, c'entra qualcosa il famoso MCE, Multiple Chemical Exposure, cioè quella famosa esposizione a componenti chimici multipli, composti chimici multipli? C'è qualcosa, questa sinergia può essere, come dire, richiamata in questo caso? Possiamo richiamarla, nel senso che noi evolutivamente il nostro organismo si è adattato a tutta una serie di sostanze che trovava normalmente nell'ambiente. Adesso in poco tempo è costretto ad adattarsi a una moltitudine di sostanze nuove, quindi ancora non sappiamo come l'organismo riesca ad adattarsi. Probabilmente qualche organismo non ci riesce e questo determina dei danni. Quindi sì, c'entra in questo senso, a questa incapacità dell'organismo di adattarsi rapidamente a tante sostanze nuove. Anche perché naturalmente non esisterà in termini epidemiologici la possibilità di avere dei dati attendibili, o sbaglio? Sì, perché oggettivamente la moltitudine di variabili crea la difficoltà di individuare, diciamo, poi dei determinanti specifici, e quindi è uno studio oggettivamente difficile. Certo, c'è anche un altro fattore, secondo me, non so se sia d'accordo, sul fatto che ci sia poca consapevolezza da parte delle persone e delle istituzioni che occorrano delle azioni così forti, soprattutto di attenzione a questi elementi, o sbaglio? No, non sbaglia. La consapevolezza e l'avere dei dati è il primo step per poi riuscire in qualche maniera a prendere delle decisioni, dei provvedimenti che possano almeno attenuare, ecco, il fenomeno della nocività di queste sostanze. Benissimo, allora noi ci fermiamo un attimo per il brano musicale, per naturalmente diamo anche questa linea, questo indirizzo, è uno spunto di riflessione che noi intendiamo dare, e questo spunto lo lasciamo all'approfondimento dei singoli, i quali ricordiamo naturalmente la possibilità di riascoltare la puntata o di scaricare il podcast della trasmissione dal sito bluradioveneto.it. What is love? Hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Siamo di nuovo in studio con il dottor Ennio Nascimbeni, al quale chiediamo: esiste una classifica, diciamo, delle nostre province come qualità dell'aria nella nostra regione, intendo? Guardi, purtroppo una classifica non esiste, nel senso che tutte le province della nostra regione hanno percentuali di inquinanti, soprattutto per quanto riguarda ozono e polveri sottili, molto vicine tra loro, e non sono certamente dei dati confortanti in questo senso. Purtroppo no. Sì. E diciamo che l'ozono, evidentemente, lei parlava di ozono, che è tipicamente, diciamo, della stagione estiva come inquinante, se non ricordo male, mentre le polveri sottili, diciamo, espletano la loro funzione primaria durante la stagione invernale. È così oppure è diverso? No, è così. L'ozono, i livelli di ozono che raggiungono livelli elevati riguarda soprattutto l'estate e, per fortuna, un periodo abbastanza limitato di tempo. Mentre il vero problema sono le polveri sottili, che invece rivestono un arco molto più ampio e soprattutto nei periodi freddi invernali. Esatto. E quali effetti hanno, perché naturalmente, sulla nostra salute le polveri sottili? Questa è la domanda delle 100 pistole, come dicono. Guardi, intanto diciamo che per legge si è stabilito che i livelli di polveri sottili non deve superare i 50 microgrammi al metro cubo per più di 35 volte all'anno. Bene, noi nel 2015, parlo della provincia di Treviso, ma potrei citare la provincia di Padova, di Verona, di Vicenza, siamo a livelli molto simili, le ha superate dalle 85 alle 90 volte questi 85, livelli. 85, praticamente quasi il triplo di quello quasi che... Quasi il triplo di quello che la legge... Siamo decisamente, ecco, messi bene, insomma. Gli effetti delle polveri sottili sono effetti che possiamo considerare a breve e a lungo termine. Gli effetti a breve termine sono, ad esempio, effetti che noi possiamo vedere in maniera molto lineare, nel senso che vediamo che ad ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili abbiamo linearmente un aumento dei ricoveri ospedalieri per cause polmonari e per cause cardiache. Quindi le cito diretto, solo come quindi, esempio uno studio sì. italiano che ha coinvolto 9 milioni di persone. E si è visto proprio in questo studio che ad ogni aumento di 10 microgrammi nelle polveri sottili avevamo un aumento dei ricoveri per cause sia cardiache sia respiratorie, ma quello che è importante è anche un aumento delle morti giornalmente per queste cause. Quindi è una causa diretta, quindi anche... È una causa assolutamente diretta, con una linearità della causa-effetto. Certo, mi pare di aver letto da qualche parte che anche dal punto di vista cerebrale ci possono essere, oltre che, diciamo, polmonare, cardiaco, eccetera, anche il cervello può essere, come dire, affetto da queste, da questo inquinante. Guardi, non so se sia. Io ad esempio lavoro in una neurorianimazione, ecco, e le dico che sono in aumento i casi di ictus ischemici, che è dovuto spesso a una maggiore aggregabilità, a maggiore coagulabilità del sangue, e le polveri sottili potrebbero essere uno dei determinanti di questa maggiore coagulabilità del sangue. Vi sono delle categorie più sensibili di altre agli inquinanti nell'aria? È una domanda un po' provocatoria, naturalmente. Sì, purtroppo ci sono delle categorie che, diciamo, per natura sono più sensibili, e sono i bambini, gli anziani, i portatori di, ad esempio, di soggetti con asma e i soggetti con altre patologie respiratorie, ma mi soffermerei soprattutto sui bambini, perché vede, i bambini hanno queste caratteristiche. Intanto hanno un metabolismo molto veloce, quindi consumano molto rapidamente tutte le sostanze che respirano. Poi hanno un rapporto superficie cutanea massa corporea maggiore ed è un organismo in crescita, quindi incamera nel suo organismo tutto ciò che prende dall'ambiente esterno. Quindi a queste sostanze inquinanti. E si pensi che un bambino respira, rispetto al peso corporeo, il triplo di un adulto, un lattante, e quando ha 6 anni due volte un adulto. E poi vive a un livello molto più basso rispetto all'adulto, e questo noi lo consideriamo. Vero. Quindi magari in città respira esattamente la concentrazione massima di dei gas di scarico e dei polveri sottili. È un, diciamo, una cosa piuttosto preoccupante, se vogliamo. Ma la domanda vera è, diciamo, è possibile da parte dei singoli cittadini, oltre che naturalmente sensibilizzare le istituzioni, fare qualcosa anche personalmente per ridurre l'inquinamento della nostra aria? Questa mi pare che sia la domanda più importante che possiamo porre. Allora, guardi, io credo che noi non dobbiamo cedere alla volta alla sensazione di impotenza che abbiamo, ecco, di fronte a questi grandi frustrazione, problemi. Frustrazione, sì. Ovviamente, come diceva lei, la nostro, diciamo, ruolo di pungolo verso le istituzioni e chi è in grado di decidere va senz'altro, diciamo, esercitato. Qualcosina però possiamo fare anche noi. Ecco, cito questo, ad esempio, dove è possibile dobbiamo cercare di usare la bicicletta e anche i mezzi pubblici. Tipo, cito, vado a memoria, spegnere il motore durante qualsiasi tipo di sosta o di fermata. O tipo ridurre gli impianti di riscaldamento domestico quando è possibile, quando si è via, oppure usare un maglioncino un pochino più pesante, non volere chissà che temperature in casa. Non usare dove possibile la stufa a legna quando ci sono disponibili altri sistemi di riscaldamento meno inquinanti, tipo a gas. E quindi, diciamo, già queste buone pratiche potrebbero, ecco, poi mi dimenticavo, non bruciamo nulla all'aperto. Questo è molto molto importante. E qui naturalmente, avvicinandosi la fine dell'anno, abbiamo un argomento piuttosto delicato che va tra tradizione e naturalmente tutela della qualità dell'aria, e sono elementi che chiaramente vanno tenuti in considerazione, però io credo che primario sia la tutela della qualità dell'aria e quindi la tutela della salute. Parliamo di ambiente e salute, non so se lei è d'accordo. Sì, io dico che anche in occasione della festa dei pane e vin credo bisognerà mediare un pochino tra quelli che sono i bisogni di salute e quelli che sono i bisogni di tenere viva una tradizione. Sì, però bisogna ritenere il problema della salute un problema prioritario, soprattutto quella dei nostri figli. Certo, io la sensazione mia è che, diciamo, ogni parola che si fa, e lo vediamo anche dai riscontri che abbiamo degli ascoltatori, ogni parola che si fa in radio sia di un'efficacia straordinaria, perché non è il, diciamo, il parlare quotidiano tra pari, è un qualcosa che, diciamo, noi in modo latente forse già conosciamo, ne siamo a conoscenza, ne siamo consapevoli, ma se ci viene detto da qualcun altro forse lo ascoltiamo in modo, come dire, più attento. Non so se lei sia d'accordo. Sì, io sono d'accordo, e vorrei così lasciare questo momento d'incontro dicendo che anche noi abbiamo l'obbligo morale verso i nostri figli, verso la società, di dare il nostro piccolo contributo, e questo lo possiamo e lo dobbiamo dare. Per esempio piantando alberi, cosa abbastanza desueta, mi pare che oggi si cerchi di tagliarli perché sono un elemento di disturbo, almeno in modo, come dire, latente, inconsapevole, non so se lei sia d'accordo. Una chiusa di questo tema. No, questo è uno delle tante cose che noi potremmo fare. Ringraziamo il dottor Ennio Nascimbeni per il suo contributo e alla prossima occasione. Grazie. Ambiente e salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.